Italia in controluce. Italia in controluce, l'approfondimento del GR di Radio 24 per quest'oggi 5 marzo, prima edizione. Il programma che scandaglia i problemi delle città, integrazione, legalità, opere pubbliche, cronaca nera e bianca. Qual è il confine tra l'economia pulita e quella criminale? Di cosa parliamo quando ci riferiamo alle mafie italiane nel mondo? E fin dove sono arrivate? A tali interrogativi Francesco Forgione, ex presidente della Commissione Antimafia, risponde nel suo libro Mafia Export. Floriana Luni lo ha intervistato per Italia in controluce. Non è più Coppola e Lupara. Qual è il volto delle mafie oggi? È quello di grandi holding economico-finanziari e criminali, capaci da un lato di controllare i propri territori tradizionali, dove per controllo si intende l'economia, le attività commerciali attraverso il racket, il pizzo, l'usura, ma anche il controllo della politica, delle istituzioni della pubblica amministrazione, e dall'altro una grande potenzialità nel ripulire questi capitali di cui dispongono nell'economia del nord dell'Italia e nella globalizzazione. Qual è la chiave del potere anche politico di contrattazione che la mafia ha con gli stati? Ma innanzitutto il loro potere economico, è questa grande massa di capitali che loro reimmettono nell'economia legale e al sud, laddove spesso non esistono diritti a partire dal lavoro, dalla salute, dall'assistenza, la capacità che attraverso questi soldi loro hanno di sostituirsi all'assenza di politiche pubbliche. Questo crea un consenso attorno alle mafie che al momento del voto si trasforma in un consenso elettorale dal quale i partiti spesso non riescono a prescindere. Quali sono le attività preferite dalle mafie? Qual è il volume del loro giro d'affari e il loro modello economico? Il ciclo del cemento rimane sempre il ciclo storico, gli investimenti immobiliari, le costruzioni, le speculazioni edilizie, che poi diventano anche speculazioni in campo turistico, ma anche i centri commerciali. Poi abbiamo visto in Campania il ciclo dei rifiuti, anche dei rifiuti tossici, che spesso mettono in connessione le mafie con le grandi industrie del nord del paese. E poi ovviamente abbiamo il traffico della cocaina, della quale l'Ndrangheta rimane il principale broker internazionale. Ecco, queste attività e la ricchezza che producono pongono un problema di reinvestimento nell'economia legale. Noi oggi non abbiamo un problema più di economia criminale, abbiamo un problema di economia, perché quando il fatturato annuo supera i 100 miliardi di euro vuol dire che il confine tra legale e illegale si disperde. Nel suo libro Mafia Export lei ha tracciato una mappatura della posizione delle varie famiglie mafiose nel mondo. Dove sono maggiormente localizzate? L'Europa è un po' colabrodo, la Spagna per i camorristi, gli ultimi arresti lo dimostrano, e anche per l'Ndrangheta, la Germania per l'Ndrangheta. Non a caso una vicenda come quella di Di Gerolamo deve incontrare poi l'Ndrangheta per poter fare eleggere un parlamentare in quei territori, per l'incidenza che l'Ndrangheta ha anche nelle comunità italiane. Poi l'Australia, il Canada, gli Stati Uniti con i rapporti storici di Cosa Nostra siciliana con Cosa Nostra americana, ma per esempio è molto interessante vedere il livello di penetrazione in un continente come quello africano. Che cosa ci vuole per contrastare le mafie? Ma ci vuole innanzitutto la consapevolezza che vanno aggredite nella dimensione economico-finanziaria ed imprenditoriale. Il problema è che c'è una grande difficoltà a dotarsi di una strumentazione legislativa di contrasto sovranazionale, almeno europea. Questa è la nuova sfida, estendere il reato di associazione mafiosa a livello europeo per poter contrastare soprattutto la dimensione finanziaria con strumenti adeguati senza fermare l'azione di contrasto alle frontiere dei singoli stati. Italia in controluce. Questa storia attraversa la storia più grande, quella che resta scritta, quella dei popoli, e ci racconta un luogo, Trieste, ci racconta una comunità, quella serba, e racconta un'integrazione che non è stata scalfita dalle guerre. Da Trieste, Andrea Saule. Dimenticate via Padova, la Lega Nord, la Turco Napolitano, la Bossi Fini, i modelli francese, tedesco e americano. Il modello perfetto, soprattutto visti i tempi, è datato addirittura XVIII secolo, ad averci visto giusto per prima Maria Teresa d'Asburgo, imperatrice d'Austria, che a Trieste, all'epoca uno dei principali porti europei, creò un sistema di immigrazione e di integrazione quasi perfetto tra la popolazione locale e turchi, greci, ebrei e slavi. A 250 anni il modello dà ancora i suoi frutti con un'etnia, quella serba, che ora nel capoluogo conta di oltre 11.000 persone. All'epoca principalmente mercanti, nel 2010 muratori, operai e piccoli imprenditori. In una città di confine dilaniata da due guerre mondiali, da eventi post-bellici e dal recente vicino conflitto nei Balcani, la comunità serba è perfettamente integrata, tanto che in uno dei capoluoghi italiani a più basso tasso di immigrazione, in ogni scuola e in ogni squadra sportiva giovanile si possono contare numerosi bambini con il classico cognome che finisce in Vic, parlare l'italiano meglio dei propri compagni di classe locali. I fatti di cronaca non riguardano praticamente mai i cittadini provenienti da Belgrado e dintorni. A spiegare l'origine dell'integrazione è il presidente della comunità serba Trieste, Bogoljub Stojicevic, che spiega anche quanto sia difficile riuscire a tenere sott'occhio chi non partecipa alla vita della comunità. Serbi sono popolo con una cultura sua, però tutta europea. Quando veniamo qua siamo più o meno subito integrati a cultura triestina e italiana. 300 anni siamo integrati più o meno uguale per lavorare e forse presentarsi propria cultura. Una comunità integrata sicuro è più facile controllare e vedere come funziona. Quando si è fuori su strada un po' difficile vedere cosa si fa. Dal consolato serbo, che ogni mattina accoglie e assiste decine di immigrati, solo conferme e la volontà di essere presi come modello in Italia da tutti gli altri. Il console generale della Repubblica Serba, Vladimir Nikolic. Questa città ha da sempre accolto i serbi come propri concittadini. Chi viene qui si trova bene, conduce una vita normale e soprattutto non si sente discriminato. Proprio per questo ci sono così tanti serbi a Trieste. Hanno la loro chiesa da ben 240 anni e hanno il loro consolato. In generale noi immigrati ci troviamo in Italia e pertanto dobbiamo rispettarne le leggi. Come console generale della Repubblica Serba, sono orgoglioso di sentire elogiare i miei connazionali quando mi confronto quotidianamente con le autorità locali. I serbi sono considerati buoni lavoratori e buoni cittadini, rispettosi della legge, tanto che ci sono meno problemi con noi che con le altre comunità straniere. Questo nasce dal rispetto che i serbi nutrono per la città che li accoglie. Ma al di là delle ragioni storiche, c'è un effettivo merito della politica locale? Lo abbiamo chiesto a Paolo Rumiz, giornalista triestino di Repubblica, che spesso nei suoi articoli e nei suoi libri ha raccontato le terre e i popoli dei Balcani, vicini così diversi, eppure così simili. Trieste è un giocattolo straordinario che pochi sanno usare. Ha in sé un DNA multinazionale spontaneo, che si ricreerebbe spontaneamente se non fosse continuamente bastonato dagli eventi e dalla politica. Viviamo una società in cui la politica inibisce continuamente l'istinto primordiale multinazionale o multietnico di questa città con il fatto che ci sono stati i dolorosissimi eventi della fine della seconda guerra mondiale. La città, per uscire da una decadenza ventennale, ha dunque bisogno di guardare al proprio passato e il primo passo può essere accogliere gli immigrati regolari e dar loro fiducia, esattamente come fece Maria Teresa d'Austria. Italia in Controluce, la prima edizione su www.radio24.it, le puntate di archivio. Le forme di comunicazione per parlare con noi sono il gruppo di Facebook Radio 24 Italia in Controluce, la mail controluce@radio24.it. A risentirci oggi alle 13.30 con altre voci e altri temi.